Beh, le lavoratrici e i lavoratori portano la loro rabbia contro una guerra che non solo non li riguarda, ma che li penalizzerà, li colpirà duramente, non solo perché Putin chiaramente sta già stringendo con il rubinetto del gas, e quindi da oggi le lavoratrici e i lavoratori sanno che il loro stipendio cala del 30% in automatico per l'aumento del costo dell'energia e con tutto quello che gli va dietro. Ma perché la guerra, come abbiamo sempre fra l'altro denunciato e combattuto noi, non sono, le guerre non sono mai finite, il nostro imperialismo, che è quello occidentale, che è quello che ha il suo braccio armato nella NATO, è sempre purtroppo stato in prima fila, e noi ci abbiamo sempre rimesso in termini di vite, in termini di qualità della vita, in termini di vita umana appunto, e in termini appunto economici, di condizioni di vita dei settori popolari. Portiamo questo. Ecco, in molti si stanno interrogando ovviamente in queste ore, ma ovviamente anche nei giorni precedenti, su quale dovrebbe essere la strada per uscire da questa crisi. Voi avete un'idea? Sì, la strada intanto è la neutralità. Vuol dire quello che addirittura dicevano, voglio dire, non sono culturalmente, politicamente, voglio dire, proveniente dalla mia storia, ma quello che dicevano qualche anno fa addirittura gli esponenti dell'Ulivo, no? La strada è la neutralità rispetto a una guerra che non solo non ci riguarda, ma che sta per colpire pesantemente tutti i settori popolari del nostro paese. Non c'è altra strada. Noi scendiamo oggi in piazza per dire no alla guerra, ma per dire anche che né un soldo, né un uomo, né una persona, né un fucile devono essere dati per questa guerra, che appunto è una guerra contro di noi. Comunque la combattono, cioè due imperialismi che si stanno combattendo in quella fetta di terra grande, fra l'altro importante, fra l'altro dal punto di vista economico, oltre che sociale e umano, e che appunto noi dobbiamo, non possiamo che essere estranei. Eppure tu citavi l'Ulivo, eppure oggi il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha detto: i comodi terzismi sono stati spenti dalle bombe di Putin, ora o si sta di qua o si sta di là. Sì, sì, ma è chiaro che l'Ulivo parlava del 2014. Certo, è passato un po' di tempo. Io adesso non so se si chiama Ulivo in un altro modo, so di sicuro che il PD, in particolar modo la sua rappresentante per quello che riguarda gli esteri, diciamo, è una forza completamente integrata all'imperialismo americano e dell'Unione Europea, quindi non mi meraviglia. Il PD è quello che è un partito che non fa gli interessi dei lavoratori, che oggi sostanzialmente con questa roba, con il sostegno alla NATO, li colpisce direttamente. Questo c'è poco da dire.